Merci. Gracias. Danke. Esprime ringraziamento, riconoscenza. Si usa per accettare o rifiutare gentilmente. Beneficenza, no tranquillo, faccio solo brava a sufficienza. Ringraziandomi allo specchio dall'adolescenza. Qui di un grazie c'è carenza. Ne vorrei di più sinceri, una vana speranza. Tanto quanto aspettarmi coerenza da chi diceva grazie ed è sparita senza esami di coscienza. Sarò sincero, vi devo tutto, non lo nego. Perlomeno un grazie di sicuro non vi prego, a mani giunte come faccio con Dio a cui mi lego, anche i piedi che se non slego annego, nella mancanza di rispetto che non spiego, ma faccio finta di niente, vado avanti e me ne frego, bastava solo un grazie giusto e mettere da parte l'ego, evitando le tue scuse t'avrei risposto prego. Ti lascio un grazie, lo sarà per sempre, tu posto nel tuo cuore la sera nel mente, la mia nuova vita, una gioia infinita, un grazie a chi curerà ogni mia ferita. Ti lascio un grazie, lo sarà per sempre, tu posto nel tuo cuore la sera nel mente, la mia nuova vita, una gioia infinita, un grazie a chi curerà ogni mia ferita. Grazie con il cuore, vanni ma se offendai, il bene se lo fai non ti ritornerà mai. Bastarda questa vita di continui sacrifici, in cui se non hai culo incontri solo merda amici. Il karma ti bombarda e ti dice you are mine, pensa positivo e vai avanti state of mind. Un grazie qui per te, il mio riferimento, la forza che ti guida è il mio più grande esempio. Un grazie va al mio uomo, mio faro nella notte, quando questa vita mi ha picchiata con le nocche. Tu c'eri allora, ieri ed anche adesso, un giorno senza te non avrebbe nessun senso. Nel buio di un dipinto poi prese vita Aurora, un figlio ti ribalta, sorprende e poi ti stende, e men che non si dica la tela si colora, godi di ogni istante, la vita non li rende. Ti lascio un grazie, lo sarà per sempre, tu posto nel tuo cuore la sera nel mente, la mia nuova vita, una gioia infinita, un grazie a chi curerà ogni mia ferita. Ti lascio un grazie, lo sarà per sempre, tu posto nel tuo cuore la sera nel mente, la mia nuova vita, una gioia infinita, grazie a chi curerà ogni mia ferita. Un grazie non è da tutti, è da persone serie. Per molte è un optional costoso, per me è di serie. Ringrazio chi m'ha messo al mondo senza addestramento. I miei genitori sono punti di riferimento. Dal giorno zero è per voi più di un ringraziamento. A chi mi ha dato amore anche per un solo momento. Ai miei cani è quel ricordo che rimarrà nel tempo. Grazie per quel sorriso che porterò nel grembo. Per il bene ed il male che mi è stato dato e fatto. La vita insegna a stare al mondo, è un dato di fatto. E nonostante tutto non chiederei di meglio, forse l'amore paterno che avrei dato ad un figlio, dando il cingo a Cristo sulla croce che ringrazio. Scendi che t'offro la cena finché sarai sazio. E per finire, se mi è concesso il mio più grosso thanks, va chi ha tirato fuori il vero me. Grazie Ness. Thank you. Merci. Gracias. Danke. Ti lascio un grazie, lo sarà per sempre, tu posto nel tuo cuore la sera nel mente, la mia nuova vita, una gioia infinita, un grazie a chi curerà ogni mia ferita. Ti lascio un grazie, lo sarà per sempre, tu posto nel tuo cuore la sera nel mente, la mia nuova vita, una gioia infinita, un grazie a chi curerà ogni mia ferita.